Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È finito il tempo in cui i politici chiedevano i sacrifici ai cittadini. Direi di iniziare, sì, con questo annuncio lapidario di Renzi di oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di ricominciare quindi la settimana da un martedì, visto che è stata almeno una piccola pausa del lunedì di Pasquetta. Quindi questo non è il governo che chiederà sacrifici agli italiani, sappiatelo, e è anche valutata, insomma, se volete, questa affermazione. Poi approfondiremo dopo con un ospite, con anche i vari servizi. Valutate se ritenete, insomma, di potervi fidare, di potervi sentire rassicurati da questo annuncio di Renzi, che questo non sarà il governo che chiederà sacrifici agli italiani. C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lo sapete, però ve lo dico, se è la prima volta, mettiamo che questa sia una conquista della prima volta, questa di qualche ascoltatore o ascoltatrice, pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre riflessioni, oppure i messaggi SMS al 349-238-6666 per dire, insomma, se vi fidate di questo annuncio, se vi sentite rassicurati del fatto che questo governo non chiederà sacrifici agli italiani, visto che finora mi sembra che tra tutti, insomma, tra i vari governi che si sono succeduti, non è che ce la stiamo passando benissimo. Questo per qualcuno può essere un messaggio di speranza, per qualcun altro meno. Dite tranquillamente la vostra, mentre tra poco vi racconto la giornata. Parleremo anche naturalmente di altre questioni, cioè per esempio oggi la sentenza della Corte di Strasburgo per i diritti umani che condanna l'Italia per i fatti della scuola Diaz. Vi ricordate, durante il G8 del 2001, con tutti i pestaggi, fu chiamata anche macelleria messicana per la brutalità. Parleremo anche di calcio e anche di una curiosità che riguarda il ciclismo. Qualcuno ha detto in realtà è una cosa che si trascina da 2 anni, ma io non pensavo che potessero ricorrere a simili biechi trucchi nel ciclismo. Ne parleremo poi dopo, man mano, voi riflettete al 349-238-6666 con i vostri messaggi, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto vediamo che giornata è stata. Programmazione economica, il CDM, il Consiglio dei Ministri, avvia la discussione del documento di economia e finanza e Renzi assicura niente tagli né aumento delle tasse. Il G8 del 2001 per il blitz delle forze dell'ordine alla scuola Diaz, la Corte Europea dei Diritti Umani condanna l'Italia accusando si trattò di tortura. Una nuova Srebrenica a Yarmouk, un UNICEF teme dei massacri nei campi profughi palestinesi vicino Damasco, assediato da Assad e in mano a ISIS e qaedisti, preoccupa la sorte di migliaia di bambini. All'Italia un pilota spara in casa durante una lite in famiglia, è stato sospeso, pilotò il volo che portò Mattarella a Palermo. La Costa Concordia, Schettino resta libero, il riesame dice no al carcere, respinto il ricorso della procura, non voleva fuggire all'estero. Il batterio degli ulivi in Puglia, l'Unione Europea dà ragione alla Francia, sì al blocco anti-xylella, presto un vertice per decidere le misure, preoccupati anche altri paesi. Calcio, Coppa Italia, Juventus senza Tevez, stasera si parte dal 2-1 dell'andata per i Viola. Iniziamo quindi dal documento di economia e finanza, il DEF, che oggi è stato discusso dal Consiglio dei Ministri. Il varo definitivo ci sarà soltanto venerdì, ma intanto Matteo Renzi ha oggi assicurato che non ci saranno né tagli né aumenti di tasse e promette di risolvere il contrasto con gli enti locali. Sentiamo. Incontriamo sicuramente prima di venerdì i comuni, se c'è bisogno incontreremo anche le regioni abbiamo incontrato Chiamparino qualche giorno fa. Ribadisco quello che ho già detto, non ci sono tagli per il 2015, punto. Che nel 2016, 2017, 2018 la revisione della spesa debba continuare, è un dato di fatto. Comunque poi col primo ospite, come vi dicevo, approfondiremo questo tema, cercheremo anche di capire meglio che cos'è il DEF, e da domani la Commissione Affari Costituzionali della Camera invece inizierà l'esame della riforma elettorale, il cui approdo in aula è fissato per il 27 aprile. La minoranza del PD, dopo il non voto, vi ricordate, nella direzione sulla relazione del segretario Matteo Renzi, c'è stata la riunione lo scorso lunedì per decidere una linea unitaria, insomma, per la riforma elettorale, va avanti la minoranza con la sua battaglia per ottenere alcune modifiche. Sentiamo prima Ettore Rosato, che è vice capogruppo del PD alla Camera, a seguire il dissidente Fassina. Comincia in commissione l'iter per la legge elettorale, un iter che è stato complesso, che ha visto un lavoro preciso di mediazione sia all'interno del partito che con le altre forze politiche e che ha prodotto una buona legge elettorale, una legge elettorale che consentirà agli elettori di scegliere i propri rappresentanti, che consentirà anche la sera stessa del voto di sapere chi ha vinto e chi governerà il nostro paese. Come abbiamo abbiamo già detto nel passaggio di revisione della legge sul Senato, non sosteniamo una legge che insieme appunto a quella che riguarda il Senato determina un arretramento pericoloso per la nostra democrazia. E poi adesso al G8 del 2001 andiamo, perché l'altra notizia in primo piano, questa che è rivolta anche alla politica, perché arriva da Strasburgo questa condanna per l'Italia per i pestaggi alla Diaz. Tortura, così deve essere qualificato il comportamento delle forze dell'ordine italiane che parteciparono al blitz nella scuola Diaz durante il G8 di Genova. A dirlo è la Corte Europea dei Diritti Umani nella sentenza emessa dopo il ricorso presentato da Arnaldo Cestaro, un manifestante veneto all'epoca 61enne, vittima assieme ad altre decine di attivisti del brutale pestaggio da parte della polizia avvenuto nella notte del 21 luglio del 2001. All'uomo è stato riconosciuto un indennizzo di 45.000 euro. Il nostro paese è stato condannato anche perché nella sua legislazione non è contemplato il reato di tortura. Soddisfatta per la sentenza Enrica Bartesaghi, presidente del Comitato Verità e Giustizia per Genova. Al di là del risarcimento economico, è soprattutto il risarcimento morale, cioè che la Corte Europea dei Diritti Umani abbia detto quello che noi diciamo da allora, e cioè che ci sono state violenze e torture assolutamente ingiustificate e spropositate. La sentenza riapre ora il confronto politico sull'introduzione del reato di tortura e il Partito Democratico assicura che il disegno di legge all'esame della Camera sarà presto approvato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vi anticipo che poi su questa sentenza relativa alla Diaz poi ci sarà più tardi come ospite il regista Vicari, che vi ricordate ha fatto un film nel 2012 sul pestaggio, la blitz brutale insomma alla Diaz, e poi ci sarà anche l'avvocato che è riuscito a vincere questo ricorso e che ha in pentola anche altri ricorsi per la caserma di Bolzaneto, no? Dove furono portati poi i manifestanti arrestati. Adesso andiamo all'estero con purtroppo le atrocità dell'ISIS in Iraq e anche dalla Siria continuano ad arrivare notizie molto preoccupanti sul campo profughi di Yarmouk. Spari, urla, inni di guerra. I miliziani dell'ISIS hanno ormai conquistato quasi tutto il campo profughi di Yarmouk, a sud di Damasco. Testimoni parlano di esecuzioni sommarie e di decapitazioni. Assediati fuori dalle forze del regime di Assad, dentro dagli jihadisti, i 18.000 rifugiati palestinesi non riescono a scappare e gli aiuti umanitari non arrivano. Non ci sono né cibo, né acqua, né farmaci. La situazione è al limite del disumano, condanna l'ONU, che ha chiesto l'accesso anche per la possibile evacuazione dei civili. Case e strade sono distrutte, i negozi non ci sono più, sta dicendo questa donna, mentre i bambini piangono. In tutto Yarmouk ce ne sono 3.500. Per le Nazioni Unite si tratta di una vergogna universale. E il mondo guarda attonito anche la scoperta delle ultime ore in Iraq. Alle porte di Tikrit, città fino a poco fa sotto assedio dello Stato Islamico, poi liberata, sono state trovate 10-12 fosse comuni. Per ora 20 corpi tirati fuori. Si tratta delle vittime del massacro del 12 giugno 2014, quando gli jihadisti dicono di aver ucciso 1.700 soldati iracheni. Oggi, in onore delle vittime, la salva d'artiglieria sparata dai militari. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da queste atrocità a quello che è successo in Kenya, la strage di studenti a Garissa la scorsa settimana. Il ministro degli esteri Gentiloni, nel giorno in cui il paese, il Kenya, è sceso in piazza contro il terrorismo, ha annunciato: nei prossimi giorni sarò in Kenya per portare simbolicamente il sostegno del governo e del paese alle comunità cristiane. Più di 2.500 persone hanno marciato questa mattina a Garissa in Kenya, il cui campus universitario è stato attaccato giovedì dai fondamentalisti islamici, con un bilancio di almeno 148 studenti uccisi, in maggioranza cristiani. Alla manifestazione hanno partecipato cristiani e musulmani, uniti e solidali contro la minaccia del terrorismo somalo legato ad Al-Qaeda. Un altro corteo con centinaia di studenti si è svolto a Nairobi. Nella capitale del Kenya, manifestanti hanno urlato slogan contro gli jihadisti di Al-Shabaab e poi, davanti al palazzo presidenziale, hanno chiesto maggior sicurezza, oltre che risarcimenti per le famiglie degli studenti massacrati. Intanto la polizia keniana ha arrestato un sesto sospetto legato alla strage al campus. I fermati ora sono 6 keniani e una persona originaria della Tanzania. Ancora nessuna notizia precisa sugli esiti della prima risposta armata dell'esercito del Kenya. Ieri l'aviazione militare ha bombardato 2 campi di Al-Shabaab in Somalia, nella regione di Jeddo, al confine con il Kenya, ma la copertura nuvolosa ha impedito di stabilire quali danni e perdite abbia causato l'operazione. Secondo un testimone testimone che ha parlato ieri alla BBC, nel bombardamento sarebbero morti anche 3 civili. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alla Grecia e l'Unione Europea. L'Unione Europea che striglia ancora Atene. Domani ci sarà la visita di Tsipras a Mosca. Nuovo scontro a distanza tra la UE e la Grecia. Bruxelles ha bocciato la nuova lista di riforme perché vanno nella direzione sbagliata. Un passo però necessario per ottenere gli aiuti pari a 7,2 miliardi di euro per pagare stipendi e debiti. Intanto il premier greco Alexis Tsipras domani volerà a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Atene potrebbe ottenere uno sconto sul prezzo del gas importato e l'attenuazione del blocco all'import di alcuni prodotti agricoli. Mosca cerca di rompere l'unità europea sulle sanzioni. Atene invece fa tattica negoziale. Come se non bastasse, Atene ha stabilito che i danni causati alla Grecia dall'occupazione nazista nella Seconda Guerra Mondiale ammontano all'astronomica cifra di 278 miliardi di euro, una richiesta che Berlino ha rispedito al mittente come irricevibile. Atene ora deve abbassare i toni delle polemiche, guadagnare tempo con i creditori e cercare di recuperare credibilità nella riscossione delle imposte e combattere la corruzione. Aprire alla concorrenza i mercati protetti. In questo modo recupererebbe la fiducia, oggi compromessa, dei partner europei. Vittorio Darolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo di nuovo sulle notizie italiane. È stato sospeso dai voli un comandante all'Italia dopo aver sparato in aria dei colpi. E naturalmente potete immaginare, dopo il disastro da Germanwings, come ci sia l'attenzione centrata al massimo livello sui piloti. Dalla foto in cabina col capo dello Stato alla sospensione dal volo dopo un colpo di pistola. Storia di un pilota all'Italia e dei controlli medici su chi ha responsabilità di centinaia di passeggeri. Maurizio Foglietti è stato rimosso al momento dal comando degli aerei dopo aver sparato in aria durante una lite la sera di Pasqua. Motivi familiari avevano acceso la discussione con il fratello e l'anziana madre. Nella casa di Todi rimbombano 3 colpi d'arma da fuoco. Il pilota viene denunciato per minacce e danneggiamento. Gli atti vengono condivisi pure con la compagnia di bandiera, che ha subito sospeso il pilota, fa notare, dalle attività di volo. Dopo il disastro della Germanwings, la morte di 150 persone voluta dalla copilota Lubitz, che ha fatto schiantare il vettore, dopo le polemiche sui mancati controlli, le verifiche sulla stabilità psicologica dei piloti sono senza dubbio un nervo scoperto delle compagnie aeree. Valutazioni sull'idoneità al servizio per l'Italia non spettano alla magistratura, precisa il procuratore di Spoleto, Cannevale, ma dunque esclusivamente alla compagnia aerea. Foglietti, 50 anni, lo scorso 14 febbraio accolse in cabina sul Roma-Palermo il neo capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo primo volo dopo l'elezione. Neanche 2 mesi dopo il pilota è sospeso. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Parliamo anche di Expo, visto che siamo proprio agli sgoccioli. Inizia il 1° maggio, oggi il sopralluogo c'è stato del presidente Cantone, che è anche il capo dell'anticorruzione. La valutazione principale degli extra costi la dovrà fare l'Avvocatura dello Stato, ha detto. Dopodiché faremo la nostra. Ieri il sindaco di Milano, Pisapia, aveva rassicurato sui tempi di realizzo delle opere, oggi è arrivata invece una doccia fredda. Sconcertato e arrabbiato, così si definisce lo scenografo Dante Ferretti, 3 volte premio Oscar, che denuncia il suo progetto per la viabilità del sito espositivo dell'Expo è ancora fermo a meno di un mese dall'inaugurazione. Per questo, tramite una lettera inviata al commissario Giuseppe Sala, si dice pronto ad avvalersi di ogni mezzo legale idoneo a salvaguardare il frutto della sua creazione intellettuale, rendendo pubblica la sua opposizione a ogni realizzazione riduttiva del progetto. Sono 4 anni che lavoro a questo progetto, ha spiegato Ferretti. È stato approvato da tempo, ma la gara di appalto è stata perfezionata soltanto da pochi giorni. Il progetto potrebbe essere realizzato per il 2 giugno, festa della Repubblica, ma Ferretti si oppone a una realizzazione parziale e annuncia: diffido dall'usare il mio nome. Impegnato in particolare nella cura degli allestimenti del Cardo e del Decumano, i 2 viali principali del sito espositivo, Ferretti si chiama fuori anche dall'evento di apertura. Certamente all'inaugurazione non parteciperò, dice, ho un nome da difendere. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora parliamo invece di difesa e attacco, perché c'è la partita di Coppa Italia, Juventus-Fiorentina, con Dario Ricci Dario, come sta andando? Eccoci, eccoci Roberta. Beh, siamo al 29esimo del primo tempo al Franchi di Firenze. Juventus, lo ricordiamo, senza il suo trascinatore Carlitos Tevez, bloccato da un infortunio muscolare proprio a poche ore dal fischio d'inizio, ma Juventus in vantaggio. Decide finora la rete al 21esimo proprio di quello che è stato all'ultimo minuto il sostituto di Tevez, cioè Alessandro Matri. C'è stata la conclusione da fuori area di Pereira, la respinta di un difensore viola, e Matri è stato il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e a scagliarlo alle spalle del portiere della Fiorentina Neto. Juventus che quindi non risente della pur importante assenza. Fiorentina che, lo ricordiamo, con questo risultato sarebbe comunque qualificata per la finale in virtù del 2-1 per i viola della gara d'andata a Torino. Però è una Juventus che se la sta giocando, è partita apertissima. 31esimo di gioco, Fiorentina 0, Juventus 1. Molto bene, ci aggiorniamo più tardi con Dario Ricci. Intanto volevo aggiornarvi sui messaggi che stanno arrivando, sia gli sms al 349-238-6666, sia le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A proposito, l'annuncio di cui tra poco parleremo di Renzi dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, a proposito della programmazione economica e finanziaria dei prossimi mesi, insomma del DEF, anzi dovrebbe essere i prossimi 3 anni più o meno, ha detto non ci saranno né tagli né ci saranno nuove tasse. Soprattutto ha detto questo non è un governo che chiederà più sacrifici agli italiani. Ecco, vi chiedevo se vi ritrovate insomma con questa promessa, se vi sentite fiduciosi. Gianni dice rapidamente tutte balle. E poi invece Emanuele, ma che cosa dice Renzi? Ha aumentato su tutto il suo governo, anche sul pellet, quindi a proposito del riscaldamento, delle nuove stufe, neanche nuovissime, insomma del pellet è un po' che c'è in giro. Caro Roberto, Renzi è un grandissimo bugiardo, dice un altro ascoltatore. Clotilde, italiani state sereni, parola di Pinocchio, insomma rifacendosi alla famosa frase rassicurante nei confronti di Letta, vi ricordate? E poi vari altri messaggi anche sulla pagina Facebook che leggerò tra poco, perché adesso dobbiamo aggiornare chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi naturalmente. Stavo guardando i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio a proposito della vostra fiducia nell'annuncio di oggi di Renzi che questo non sarà il governo che chiederà ancora sacrifici ai cittadini. Stefano dice io mi sentirò rassicurato quando se ne andrà. Emilia dice balle, molti dicono sono tutte balle. Nuccio assolutamente no, non mi fido, tra l'altro gli 80 euro quanto ci sono costati? Le nuove tasse le metteranno gli enti locali, sempre pronti a mettere nuove tasse per soddisfare i loro appetiti, dice Nuccio. Marilena scrive per niente, non mi fido, tutti uguali, quello di prima non metteva le mani nelle tasche degli italiani, neanche lui le mette ma le fa mettere agli altri. Stefano, è vergognoso prendere in giro i sudditi paganti, cioè noi, in questo modo. Il mio sogno proibito è quello di essere governato da politici seri, coerenti, umili, competenti. Riccardo dice pifferaio magico, pifferaio tragico. Tra poco chiederemo anche all'ospite che raggiungerò telefonicamente tra pochi istanti. Adesso però vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, ricordatevi che Effetto Notte è puntuale tutte le sere alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Renzi presenta il DEF, documento di economia e finanza, dice né tagli né aumento delle tasse. Poi Padoan rassicura sul fatto che il PIL è a più 0,7% e che nel 2017 sarà più 1,5%, che le cose vanno meglio del previsto. Poi è arrivata la sentenza di condanna all'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani sul G8, il blitz alla Diaz fu tortura, i colpevoli sono rimasti impuniti e da giovedì, questo ha dato un'accelerazione, alla Camera si vota il disegno di legge sulla tortura. E poi c'è il rischio, per spostarci sulle notizie dall'estero, una nuova Srebrenica. Sapete quello che successe nel 95 in Bosnia con il massacro di 8.000 civili musulmani. Questo potrebbe succedere a Yarmouk, 3.500 bambini in trappola, orrore ISIS in Iraq, 2.000 corpi nelle fosse comuni a Tikrit, mentre Yarmouk è vicino Damasco, il campo profughi vicino Damasco in mano ai jihadisti, potrebbe essere una strage anche lì. Bruxelles striglia Atene, di nuovo i rapporti difficili tra l'Europa e la Grecia, misure nella direzione sbagliata. Intanto Tsipras, il primo ministro greco, va da Putin e chiede ancora i danni di guerra alla Germania, uno scontro da 279 miliardi. Poi per quanto riguarda la politica c'è la battaglia sull'Italicum, l'appello al dialogo dei riformisti PD, mentre Fitto, il dissidente di Forza Italia, dice escludere dalle liste chi ha consenso è un suicidio. Spara durante una lite in casa, è stato sospeso un pilota dell'Alitalia che fu tra l'altro il comandante del volo di linea preso da Mattarella per andare a Palermo. E poi per il calcio, striscioni contro la mamma di Ciro, la curva sud della Roma chiusa per un turno, c'è la Coppa Italia, per il momento Fiorentina-Juventus 0-1. E ora parliamo quindi del DEF, del documento di programmazione economica e finanziaria. Il Consiglio dei Ministri ha avviato l'esame del DEF. Oggi si è tenuta una prima riunione del governo. Il varo definitivo dovrebbe esserci però venerdì prossimo. Oggi però Renzi ha fatto una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri e ha già annunciato delle misure, assicurando che non ci saranno né tagli né ci saranno nuove tasse, che si ricreerà armonia con gli enti locali. E in particolare ha detto questo: è finito il tempo in cui i politici chiedevano i sacrifici ai cittadini. I cittadini oggi sanno che da questo governo non vengono richieste di nuove tasse. Noi abbiamo fatto gli 80 euro, noi abbiamo fatto l'IRAP sul costo del lavoro, noi continueremo con la detassazione delle misure che serviranno a creare crescita e occupazione. Continueremo in questa direzione. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e lo faremo. Caro Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Ciao Alberto. Dobbiamo affidarci a questa promessa di Renzi? È finito il tempo in cui i politici chiedono i sacrifici ai cittadini? Mi fa venire in mente che DEF vuol dire dobbiamo essere fiduciosi. Non saprei. Mi pare un acronimo. Così, un auspicio. Dobbiamo, è quasi un imperativo, quindi non abbiamo scampo, insomma, o siamo fiduciosi o ci arrangiamo. Insomma, è chiaro che il DEF per natura sua fotografa una situazione ferma e preannuncia misure che verranno varate poi in autunno. Lo spieghiamo quindi cos'è? Ecco, la legge di stabilità, quindi è un documento in cui si programma quali saranno le entrate, le uscite. È consegnato entro il 10 aprile, lo prevede la regola dell'Europa, tutti i paesi consegnano il documento di economia e finanza, che è fatto sostanzialmente in tre parti, cioè il programma di stabilità, che è quello appunto che dà conto del quadro macroeconomico, ci sono poi le tendenze di finanza pubblica, sono quelle che vengono fatte dalla ragioneria, e c'è anche della novità il programma nazionale di riforme, con il corrispettivo di valore sul prodotto interno lordo. E questo è il DEF, è una parte del DEF annunciata oggi, che per la verità è stata annunciata solo una cornice, verrà completata poi col piano delle riforme e varata venerdì. Il problema è che qui ci è stato raccontato e ci è stato detto che ci sarà una crescita rivista leggermente al rialzo, il PIL crescerà quest'anno dello 0,7, che va all'1,4 nel 2016, l'1,5 nel 2017. Sentiamolo dalla viva voce di Padoan, sentiamo, sì. Il ministro dell'economia. Parto da una constatazione: l'economia internazionale è migliore di quella che si pensava qualche mese fa, l'economia italiana è migliore di quello che si pensava qualche mese fa, sia per fattori esogeni sia per meriti propri, per risultati ottenuti a livello europeo e la politica economica del governo. Ecco, volevo dare ulteriore sostanza, Alberto Rioli, facendo sentire anche dal ministro dell'economia Padoan. Quindi ulteriori spiragli? Sì, però molto molto edulcorati, nel senso che ci sono dei numeri importanti in questo DEF che vanno un po' nella direzione contraria a quella che ha raccontato il Premier, per la verità. Nel nostro calcolo pesano 16 miliardi le cosiddette clausole di salvaguardia che sono state messe dal governo Letta, ma prorogate poi dal governo Renzi col primo DEF, la prima legge di stabilità, che valgono 16 miliardi, cioè sono 16 miliardi di aumento dell'IVA e delle accise che oggi il Premier ha detto che verranno scongiurate, ma bisogna trovarli quei 16 miliardi. E nel documento di economia e finanza è scritto che quei 16 miliardi si troveranno con azioni che riguardano per 10 miliardi tagli di spesa e soprattutto anche tagli e razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, e il resto dovrebbe essere l'utilizzo della famosa flessibilità europea e un pochino dato dalla crescita del PIL che prima non c'era. Ma il problema è fare 10 miliardi di tagli alla spesa, ma soprattutto alla tax expenditure, cioè alle agevolazioni fiscali, è una cosa che entra nella carne viva ed è difficile portare a casa 10 miliardi in un unico anno, non è mai stato fatto da nessun governo. Senza tasse, dici, non è possibile senza tasse. Non è possibile, soprattutto se vai a tagliare le agevolazioni fiscali, incidi sugli sconti IRPEF, gli sconti per i nuclei familiari allargati, gli sconti ai pensionati, e quelle sono cose intoccabili vista la situazione sociale del nostro paese, chiaramente. Nel complesso valgono 250 miliardi, ma si è già capito, e l'ha detto più volte anche la ragioneria e il Ministero, si può arrivare a 1,6 miliardi, sì e no, di taglio effettivo fatto con il bisturi senza creare danni sociali. Però risentiamo la conferma di nuovo di Renzi, che insiste su questo punto. Sì. Non ci sono tagli e non c'è un aumento delle tasse. Capisco che non ci siate abituati, ma è così. Da quando siamo al governo, l'operazione costante che abbiamo fatto è quella della riduzione della pressione fiscale e delle tasse, che si è concretizzata innanzitutto con la misura degli 80 euro, su cui ricorderete ci veniva detto in questa sala, ma chissà se troverete le coperture. Una volta trovate le coperture, ma chissà se queste coperture saranno poi coperture solide e stabili, ma chissà se queste coperture saranno confermate nel 2015. Tutte previsioni negative di sventura puntualmente smentite. Ma chissà, Alberto Rioli. Chissà se saranno smentite anche stavolta, speriamo. Per ora nel DEF c'è scritto che le entrate tributarie, cioè le tasse, cresceranno quest'anno al 33% del PIL rispetto al 30,1% del 2014. Quindi crescono, considera pochino, che crescono in termini percentuali su un PIL che a sua volta cresce, quindi in termini assoluti non ti dico, molto di più ovviamente, e continuerà, per come è classificato nel DEF, a crescere anche nel 2016-2017 intorno al 31,2%. La pressione fiscale, che è quella che unisce tutta diciamo così, la quantificazione delle tasse e dei contributi sul PIL, sta intorno al 43,5%, confermando quello che era nel 2014, ma in questo caso il 43,5% di un PIL cresciuto è di più in termini assoluti, e addirittura nel 2016-2017 sale al 44,1-44,2%, anche lì a fronte di un PIL che aumenta quasi di 2 punti, quindi insomma sarà molto difficile che davvero le tasse vengano tagliate in modo vistoso. C'è un problema contabile, va detto, per obiettività metodologica, che qui i famosi 80 euro vengono considerati un aumento di tasse per un fatto di contabilità, ma ovviamente sono uno sconto. Però anche quel dato lì depurato degli 80 euro non è molto molto diverso in termini percentuali da quello che ho detto poc'anzi, quindi insomma la scommessa è tutta da giocare, sarà affidata alla legge di stabilità. Il DEF è un documento cornice che serve a fini europei, appunto, per confermare una direttrice, una direzione di marcia che è verso le riforme, che valgono tra l'altro 0,4% del PIL o 0,8% addirittura l'anno prossimo, quindi sono cose importanti nella classificazione europea, ma non entrano nel dettaglio poi delle misure da prendere, sono tutte da inventare, tutte da concordare, tutte da negoziare, e lo vedremo nella legge di stabilità, e non sarà una cosa semplice. E lo vedremo, e quanta speranza ci tocca avere, autoproducente sì, insomma, questa speranza. Grazie Alberto Rioli, ciao. Grazie Alberto. A te, buona ciao. Serata. Adesso ci prendiamo una pausa di ricreazione, vedo i vostri altri messaggi sconsolati, diciamo, su questo punto, però intanto... tra poco ci trasferiamo su altri argomenti. Vogliamo sentire, per alleggerirci, vedo Crozza, ecco, forse un momento così di... Ci sei, Gio, va bene, no, perché? Di relax. Guarda che è molto importante. A di martedì sulla per dirti, perché non ridere, fare ci sono, che ci sei? Ma cosa... Renzi oggi ha presentato il DEF. L'ho appena detto, ma cosa conferma. Ma dite? Ma c'è un momento drammatico, cioè no, ha presentato il DEF, Giova Renzi. Che cos'è il DEF? La previsione economica per i prossimi 3 anni. Ha detto che non ci saranno né tagli né aumento delle tasse. Vai! Ma scusa Giova, ma fino a ieri non ci servivano 10 miliardi? E dove li abbiamo trovati i soldi? Abbiamo ereditato? No. Vuoi dire che Padoan ha tirato su dei soldi col gratta e vinci? Giova, oggi sul Corriere c'era un elenco... A proposito della speranza, di cui parlavamo prima. Però sembra che vi siano delle notizie invece di un gol, 2 gol, con Dario Ricci. Dario, Coppa Italia. 1-1 Roberta, ma è il secondo della Juventus, siamo al 44esimo al Franchi, la Juventus ha raddoppiato dopo la rete di Matri al 20esimo, al 43esimo il raddoppio di Pereira, bravo a ribattere in porta la respinta di Neto dopo una conclusione di Morata, quindi Fiorentina 0, Juventus 2, con questo risultato la Juventus avrebbe rimontato la sconfitta dell'andata a Torino e sarebbe qualificata per la finale, ma manca ancora tutto il secondo tempo. Certamente, potremo riaggiornarci, intanto a tra poco. È Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi i messaggi, vogliamo sentirci visto che l'abbiamo preso un po' così a cavallo, di nuovo un po' di crozza, che prima ci ha detto le cosa... Le cooperative coinvolte pare abbiano comprato migliaia di bottiglie di vino che D'Alema produce così per tenerselo buono in Vino Veritas, ma anche in Indagines la Veritas piano piano sta venendo fuori. Per carità, D'Alema non c'entra niente, eh? Però a questo punto, dal momento che ora produce vino, io gli consiglierei di fare il barricato. Ma non il vino. No, no, proprio lui. No. Barricato in casa. No. Allora, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, potete continuare a mandare i vostri messaggi sul quanto ha detto Renzi, che abbiamo sentito all'inizio, e poi anche con il primo ospite, no, a proposito della programmazione dei prossimi tre anni dell'economia e della finanza italiana, dicendo: questo è finalmente il tempo in cui i politici non chiederanno più i sacrifici ai cittadini. Non mi è sembrato molto, per la quale il vice direttore del Sole, Alberto Rioli, e neanche Crozza poco fa, insomma, con la sua ironia. Voi continuate a scrivere le vostre riflessioni su questo annuncio, su questa promessa, come volete chiamarlo, al 349-238-6666, che è il numero per gli sms, 349-238-6666, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice un ascoltatore: perché non si dicono in conferenza stampa queste cose che ha detto Alberto Rioli? Chiaramente la politica è fatta così, difficilmente insomma si va nei dettagli, nelle pieghe della verità, quando la verità scottano un po'. Ma adesso vi ricordo quali sono i fatti principali di oggi. A proposito appunto di economia, la programmazione economica, il CDM avvia, il Consiglio dei Ministri, la discussione oggi del documento di economia e finanza, e Renzi alla fine in conferenza stampa ha assicurato niente tagli né aumento delle tasse. Il G8 del 2001 per il blitz delle forze dell'ordine alla scuola Diaz, la Corte Europea dei Diritti Umani condanna l'Italia accusando si trattò di tortura. Una nuova Srebrenica a Yarmouk, l'UNICEF teme massacri nel campo profughi palestinese vicino Damasco in Siria, assediato da Assad, in mano a ISIS e qaedisti, preoccupa la sorte di migliaia di bambini che lì si trovano. All'Italia un pilota spara in casa durante una lite familiare, è stato sospeso, pilotò il volo che portò Mattarella a Palermo. La Costa Concordia a Schettino resta libero, quindi il riesame dice no al carcere, respinto il ricorso della procura, non voleva fuggire all'estero. Il batterio degli ulivi in Puglia, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, l'Unione Europea dà ragione alla Francia per il fatto che non vuole importare prodotti vegetali dalla Puglia, sia il blocco anti-xylella. Presto ci sarà un vertice per decidere le misure, ci sono altri paesi europei preoccupati, quindi il rischio di effetto domino. E poi per il calcio, Coppa Italia, Fiorentina, Juventus 2-0. A questo punto occupiamoci dei fatti di Genova del 2001, sapete, se ne è tornato a parlare appunto per questa sentenza di condanna nei confronti dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, una condanna sul blitz della polizia nella scuola Diaz, famosa, famigerata scuola Diaz, vi ricordate, durante il G8 di quell'anno. La Corte Europea ha stabilito che quanto compiuto dalle forze dell'ordine italiane nell'irruzione nella scuola Diaz il 21 luglio 2001 deve essere qualificato come tortura. Quindi Strasburgo cosa ha fatto? Ha condannato l'Italia non solo per quanto fatto a uno dei manifestanti, il manifestante Arnaldo Cestaro, che all'epoca aveva 62 anni, insomma aveva anche una certa età, era lì per dormire nella scuola, fu pestato più volte, poi ne parleremo, e si dice ancora in questa sentenza di condanna, cioè non solo per quel fatto, ma anche perché non ha l'Italia, ecco perché c'è questa condanna, una legislazione adeguata a punire il reato di tortura. In particolare è stato violato l'articolo 3 sul divieto di tortura e di maltrattamenti inumani e degradanti. E si dice ancora in questa sentenza di condanna nei confronti del nostro paese: tenuto conto della gravità dei fatti avvenuti alla Diaz, la risposta delle autorità italiane è stata inadeguata, e ancora la polizia italiana ha potuto impunemente rifiutare alle autorità competenti la necessaria collaborazione per identificare gli agenti che potevano essere implicati negli atti di tortura. Vi ricordo che finirono sotto accusa 125 poliziotti, compresi dirigenti e capisquadra. Ne vorrei parlare con il regista Daniele Vicari, che saluto. Buonasera Vicari. Buonasera a tutti. Che nel 2012 dedicò un famoso film di impegno civile, anche molto crudo, no? Diaz, Don't Clean Up This Blood era il titolo, Vicari. Che si è parlato anche proprio di macelleria messicana, fu un vicequestore allora che parlò di questa violenza così brutale, anche gratuita. Che dopo questa sentenza, che effetto le fa questa sentenza, Vicari? Ma secondo me questa sentenza precipita sulla corazza di ipocrisia del dibattito politico che c'è in Italia su temi relativi ai diritti civili, perché mi sembra, da quello che lei ha letto, che individui perfettamente attraverso il comportamento in quel caso delle forze dell'ordine, individui perfettamente quanto poco siano tutelati i cittadini che finiscono agli arresti in determinate condizioni o che vengono in certe situazioni di ordine pubblico che vengono, i cui diritti vengono conculcati in una maniera evidente e incredibilmente impunita. E questa sentenza, secondo me, in qualche modo è una sveglia per tutti noi, perché è chiaro che non abbiamo affrontato il problema, tantomeno lo abbiamo risolto. Dobbiamo arrivare qualcuno dall'esterno per dirci: attenzione, nello Stato di diritto non può succedere tutto ciò. Sentiamolo un passaggio di quel film Diaz, appunto, di Vicari, che era un po' un mettere insieme ricostruzione e documentario di quei fatti. 300.000 manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato. Hanno devastato la città. Che cosa si aspettavano? E noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono. Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì? Cazzo! Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più. Io non andarmene da sto posto di merda. Per dormire stanotte. Allora Diaz, c'è ancora posto. Non è lì dove si sono rifugiati i Black Bloc? Giusto uno stralcio, insomma, di quel film così forte, Diaz. Vicari, come fu accolto al tempo? 2012? Beh, fuori dall'Italia molto bene, perché il Festival di Berlino il film ha vinto il premio del pubblico. Poi in Italia ha suscitato un vivace dibattito, per fortuna, e ha un po' squarciato quel lungo silenzio che c'era stato per oltre 10 anni sul tema. Ma è un tema, credo, che questa sentenza di oggi è un tema che rimette sui giusti binari, cioè riguarda la qualità della democrazia. E penso che questo film abbia dato, come diceva giustamente Vicari, un grosso contributo, almeno la consapevolezza, e a questo punto questo è un primo risultato, almeno, insomma, almeno per quanto riguarda manifestanti. Ma sta per arrivare anche la sentenza su Bolzaneto, perché lì ce ne sono 30 di ricorsi. Ah, certo. Penso che sarà questa, se questa è stata una tegola, quella rischia di essere un tetto in terra che casca in testa alla giustizia italiana. Staremo a vedere, appunto, questione di tempo. Grazie intanto Daniele Vicari. Grazie a voi. Grazie molto. E c'è adesso in diretta proprio Nicolò Paoletti. Buonasera, avvocato. Buonasera. Che è il legale di Arnaldo Cestaro, che avevamo citato proprio perché è stato il ricorrente colui in base al quale, grazie al ricorso del quale, c'è stata questa sentenza, diciamo, di condanna nei confronti dell'Italia per tortura. Come è andata la vicenda, avvocato Paoletti? Perché Cestaro era lì. Stava dormendo nella scuola Diaz, che era stata messa a disposizione dal comune proprio per manifestanti. E l'irruzione della polizia ha messo in condizione tutti coloro che stavano in questa scuola di trovarsi in grave difficoltà, perché in effetti sono stati sorpresi nel sonno. C'è stato addirittura impaurito, ha alzato le braccia, però non è stato rispettato, è stato massacrato di botte e poi l'hanno dovuto portare all'ospedale. Invece parte degli altri manifestanti sono stati portati poi a Bolzaneto. Tra l'altro lui, Cestaro, non era neanche giovanissimo al tempo, 62 anni. 62 no? anni. Ecco, l'aveva anche detto, sono anziano, sì, lasciatemi certo. stare. Eppure era questo stato... non lo so se l'ha detto, ma insomma in ogni modo si poteva vedere, non c'è dubbio. E poi non c'è giustificazione, non è che se uno è giovane poi può essere massacrato di botte. No? Naturalmente. Perché ne sei gratuitamente, non c'era una ragione, perché io posso ancora capire, non condivido, posso ancora capire il poliziotto che si trova in piazza durante una manifestazione magari abbastanza violenta, è chiaro che reagisce. Non è giustificato fino in fondo, però si può capire. Invece Kidwell proprio era completamente, ormai la situazione a Genova era tornata dalla calma assoluta, le manifestazioni, non c'erano manifestazioni in atto, era notte e la gente stava dormendo, quindi hanno voluto proprio attaccare gratuitamente queste persone, e questo la Corte l'ha detto. Cestaro ha subito, tra l'altro, varie fratture, no? Infatti stato portato in ospedale, se no l'avrebbero portato a Bolzaneto. Lì nella caserma di Bolzaneto. Sentivo che ci saranno altri 30 ricorsi, almeno per chi è stato nella caserma di Bolzaneto. Se ne occuperà lei, avvocato, in parte? Molti sì. E quindi come ha proceduto con Cestaro e come procederà anche per questi altri ricorsi? No, gli altri c'è già un ricorso pendente, siamo in attesa della sentenza per Bolzaneto. Senta, per la condanna da parte appunto della Corte di Strasburgo ci sarà un risarcimento per Cestaro? Quello è l'aspetto marginale, sì, è stato condannato ai danni morali, una somma abbastanza insignificante perché sono 45.000 euro, però i danni patrimoniali, i danni diciamo a lesioni che ha subito possono essere ancora richiesti internamente. Lei era però la questione è che si era rotto diciamo il rapporto fra cittadino e Stato. Il cittadino deve avere fiducia nello Stato e nella polizia. In quel momento c'è stata proprio una rottura, un danno politico enorme, perché nel momento in cui il cittadino non ha più fiducia e ha paura addirittura della polizia, lei capisce che non è più uno Stato di diritto in quale viviamo, no? Voi Paoletti avevate cercato giustizia in Italia? No, io mi sono occupato soltanto del ricorso alla Corte Europea. E quindi adesso appunto si occuperà di questi ricorsi già in corso? C'è anche l'avvocato Dario Rossi di Genova che si occuperà anche dei ricorsi interni per quanto riguarda Cestaro. E può dirsi soddisfatto comunque? Probabilmente. Sono molto soddisfatto, anche perché in effetti spero che almeno nell'ordinamento italiano verrà inserito il reato di tortura, che tanti anni, lei consideri che la Convenzione di New York sulla tortura è del 1984, l'Italia l'ha sottoscritta nel 1987 e da quel momento che sta violando il diritto internazionale, perché una volta sottoscritta la convenzione avrebbe dovuto adottare dei provvedimenti legislativi per inserire nel nostro ordinamento il reato di tortura, cosa che non è stata fatta ancora oggi. Come mai secondo lei Paoletti si tarda tanto a creare questa legge? Pensavo al Papa, che in fondo appena è entrato in carica una delle prime cose che ha fatto è stato eliminare l'ergastolo e introdurre il reato di tortura nel Vaticano. Noi siamo un pochino più arretrati. Insomma, speriamo di recuperare allora. La ringrazio, prego, avvocato Paoletti. Grazie, buon lavoro. Strade in diretta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi e con me i vostri messaggi, interagite attraverso il 349-238-6666, il numero per gli sms, sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Addirittura a proposito dei dati di Renzi, dell'andamento del PIL annunciato, spiegato da Padoa, dal Ministro dell'Economia, dalle promesse anche di Renzi, che è finito il tempo per che i politici impongano dei sacrifici agli italiani, pubblica addirittura sulla pagina Facebook di Effetto Notte un diagramma con l'andamento del PIL. Adesso così piccolino riesco a vedere poco gli anni, ma potete andarlo a consultare voi. Poi invece Luca dice, a proposito di fiducia in questa promessa di Renzi, domani mattina corro ad aprire un mutuo per la seconda casa, grazie Matteo. E poi Max dice, balle spaziali che hanno già superato gli estremi limiti del cosmo. E adesso invece vi ricordo, stiamo più coi piedi per terra, quali sono state le notizie più importanti di oggi. Naturalmente, a proposito dei vostri commenti, Renzi, che oggi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri ha presentato il DEF, almeno le linee generali di questo documento di economia e di finanza, promettendo né tagli né aumento delle tasse, dicendo appunto che è finito il tempo in cui i politici impongono i sacrifici ai cittadini. Poi la sentenza della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, una sentenza di condanna nei confronti d'Italia per il blitz alla scuola Diaz nel G8 del 2001, fu tortura. E dice anche nella sua sentenza, i colpevoli sono rimasti impuniti, così dice la Corte di Strasburgo. Poi si rischia una nuova Srebrenica a Yarmouk in Siria, 3.500 bambini in trappola in un luogo tenuto ostaggio dell'ISIS che imperversa anche in Iraq. E poi Bruxelles che striglia ancora la Grecia, Atene, misure nella direzione sbagliata, mentre Tsipras, il primo ministro, va da Putin, presidente russo. C'è per quanto riguarda la politica la battaglia sull'Italicum, tra poco si dovrà discutere nell'iter parlamentare, c'è un appello al dialogo da parte dei riformisti del PD, intanto in Forza Italia Fitto, il dissidente numero uno, dice escludere dalle liste chi ha consenso è un suicidio. E poi un pilota dell'Alitalia che dopo i fatti della Germanwings, c'è una particolare attenzione sui piloti, ha sparato durante una lite in famiglia, ma che se non fosse stato un pilota ci mancherebbe che non ci fosse attenzione, è stato sospeso dall'Alitalia, era il comandante del volo di linea preso da Mattarella per andare a Palermo. E poi la Coppa Italia, sulla quale tra poco ci aggiorneremo, è sempre Fiorentina-Juventus 2-0 per la Juventus. Europa. Europa 24 notte. Parliamo di Uber adesso. Si intravede una svolta nella vicenda di Uber, che è il servizio di auto con conducente che si prenota tramite applicazione. Al centro di polemiche, ricorsi, grovigli giudiziari in tutta Europa, insomma, la Commissione Europea, secondo alcune indiscrezioni di stampa, starebbe valutando la possibilità di regolare questa applicazione a livello comunitario anziché a livello nazionale. Ciò potrebbe facilitare la diffusione del servizio, mettendo fine quindi ai divieti nazionali e creando un quadro di regole più certo. Questo è sicuramente l'auspicio di Benedetta Arese Lucini, che è la manager di Uber Italia, al microfono di Alessandra Schepisi. Secondo delle indiscrezioni di stampa si intravederebbe una svolta nella vicenda Uber a livello europeo, perché la Commissione starebbe valutando la possibilità di regolare l'app a livello comunitario piuttosto che a livello nazionale. Se fossero vere queste indiscrezioni, che scenari si potrebbero aprire, cioè che cosa potrebbe cambiare per Uber? Diciamo che non sappiamo ancora se sono confermate, però se fossero confermate sarebbe sicuramente un'ottima notizia. Reputiamo di essere un servizio che dà un po' di benefici per la mobilità in giro per il mondo, e quindi vediamo che può essere d'aiuto anche all'Europa. A gennaio il nostro CEO Travis è venuto in Europa promettendo 50.000 nuove opportunità di lavoro per l'Europa, e questo sono chiaramente facilitate se c'è una regolamentazione chiara. In più penso che queste leggi europee creano veramente, vanno verso un'Europa che vuole davvero portare avanti un single digital market, e quindi che si posiziona non solo per Uber ma per tante nuove tecnologie nel portare avanti queste innovazioni. Perché di fatto adesso c'è, come dire, una situazione di grossa confusione, anche regole diverse da un paese all'altro, anche ricorsi, insomma, quindi l'Unione Europea dovrebbe auspicabilmente pronunciarsi nel senso di una liberalizzazione per creare un quadro un po' più certo. Sì, esatto. Allora, il mercato tradizionalmente del trasporto l'Europa ha sempre rimandato a competenze nazionali, ed è per quello che oggi abbiamo gli stati con dei diversissime regolamentazioni, perché se uno prende la Finlandia e uno prende l'Italia sono regolamentazioni completamente diverse, mercati più o meno liberalizzati. Sicuramente un progetto europeo porterebbe una liberalizzazione nel mercato, ma anche delle regole necessarie per portare avanti la nostra app e la nostra innovazione. Non è detto che poi finisca così, perché in realtà ci sono anche dei forti interessi, quelli, come sappiamo, dei tassisti, che insomma sono interessi corporativi piuttosto forti. Allora, diciamo che gli interessi dei taxi sono anche lì diversi in diversi paesi, perché in molti paesi il taxi è abbastanza liberalizzato, nel senso che per prendere una licenza basta fare un test e non c'è nessun pagamento rispetto a una licenza. In Italia, come si fa, perché le licenze sono state storicamente chiuse e in alcune città da più di 20-30 anni che non vengono aumentate, queste licenze hanno acquisito un valore in un mercato secondario. Quindi il grosso problema è stato questo valore che viene dato a un bene che invece doveva essere completamente gratuito e doveva essere solamente un'autorizzazione. Sì, questi interessi sono forti, ma dall'altra parte, in un mondo in cui il consumatore dovrebbe essere considerato e un miglioramento di sistemi di trasporto dovrebbe essere, allora c'è sicuramente una volontà da parte dell'Europa di tener conto di questo, speriamo. Perché di fatto poi si porta a un miglioramento del servizio, insomma, questo, no? In sintesi, diciamo. Diciamo che in tutti gli altri settori in cui c'è concorrenza i servizi migliorano, i prezzi si abbassano, questa è un po' la base dell'economia. Poi ovviamente se ci sono chiare regole intorno a un servizio e a un settore che lascia aperto la competizione, ma che comunque crea dei regolamenti che mantengono un certo livello di sicurezza per il consumatore, a questo punto probabilmente il consumatore ne esce con il risultato migliore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Di sport adesso con il nostro Dario Ricci, che prima di tutto ci aggiorna sulla Coppa Italia. La Juventus conduce sempre per 2-0 sulla Fiorentina? Sì Roberta, siamo al 52esimo di gioco e 2-0 grazie ai gol al 20esimo di Matri, al 43esimo di Pereira. Con questo risultato, vale la pena ricordarlo, la Juventus ribalta l'1-2 subito all'andata a Torino ed è di fatto qualificata per la finale di Coppa Italia, ma appunto siamo ancora al 52esimo, ancora tutta da scrivere la storia di questa sfida. Senti, invece sono stati iscritti questi strisci. striscioni di una bassezza veramente inarrivabile contro la madre di Ciro Esposito, no? Sabato nella partita Napoli-Roma? Sì, sì, scritti quegli striscioni e sanzionati oggi dal giudice sportivo con la chiusura della curva sud romanista per un turno, turno di chiusura che verrà scontato il prossimo 19 aprile nella gara interna contro l'Atalanta, e inevitabilmente sentenza che ha dato adito a polemiche, perché duro il presidente della Roma Pallotta, che ha definito pochi fottuti idioti, questo le parole testuali utilizzate dal numero uno giallorosso, questi ultra che hanno esposto questi striscioni. Di tutt'altro avviso invece la famiglia Esposito, che tramite il suo avvocato si è detta decisamente insoddisfatta per una pena giudicata troppo mite. Così pare a me, non so a te. È importante dire che a quasi un anno da quell'omicidio ancora deve essere istituito il processo, e forse questo è il dato più preoccupante. Senti, abbiamo ancora un minuto. Hai visto questa storia del motorino nelle bici da corsa? Faranno delle indagini sul Giro d'Italia? Guardavo così velocemente. Sì, la notizia non è nuova, nel senso che ormai questo è il ciclismo che... Cioè, ma oltre al doping pure il motorino dentro la bici. Ecco, non si fa mancare nulla, c'è da tempo ormai questo sospetto, comprovato del resto, che in alcune competizioni internazionali alcuni ciclisti abbiano utilizzato dei piccoli motori all'interno del telaio per rendere, diciamo, più agevoli alcune salite, e inevitabilmente l'Unione Ciclistica Internazionale sta prendendo le contromisure. Controlli di fatto a tappeto vengono fatti sempre più frequentemente al termine delle gare, ma insomma, decisamente il ciclismo almeno questa poteva risparmiarsi. Direi di sì, veramente indecoroso addirittura avere il motorino dentro la bicicletta che spinge. Vabbè, grazie Darulici nel frattempo. Grazie a voi. Noi ci sentiamo tra pochi istanti.